Che cos'è sto rumore di sottofondo che mi sembra di riconoscere un brano dei Ping Pong. Dei Ping Pong. Chi sono i Ping Pong? Stefano Passini e Andrea Benfini. Esattamente, siamo proprio noi. Siete proprio voi. Siamo no, siccome questo noi. Brano dura 6 minuti e 46, ci parliamo un po' sopra. Sì, non ti preoccupare. Non anche se noi siamo degli accurati pignoli. Esatto. E purista. La musica puristi, se di solito non ci si parla sopra perché ci parlano già tanto. No, è che il problema è che se non ci parli sopra qualcuno te la registra e, e poi non la compra, capito? Ma non c'è nulla da vendere, nulla da comprare. Nulla da vendere, nulla da comprare, tutto si trasforma. Ascoltiamola un attimo, va. Poi c'è anche da dire che Stefano Passini è il più bello e il più bravo batterista di Bologna, no? Sempre cioè, perché ci sono pochi batteristi a Bologna. Ci sono pochi batteristi a Bologna, però insomma te la cavi molto bene anche tu. 333 180 94 94 se qualcuno di voi vuole messaggiare via WhatsApp una lettera d'amore a Stefano Passini. Pasquini, un lapsus coxiano questo è perché in effetti anzi salutiamo il nostro comune amico Guido Molinari che mi telefona sempre pensando di telefonare a Passini. No. Certo, per cui non sei l'unico che messaggia. Beh, siamo tutini. Renfini, Passini, Pasquini e Molinari. Molinari, no, certo. E poi abbiamo anche naturalmente, anzi in realtà è un po' preoccupante perché Marco Roma che canta, che lui ci manda dei vocali al 333 180 94 94 tutti i giorni, lui ci manda dei vocali cantati, oggi non ce l'ha mandato, per cui però arriverà. No, l'ultimo che è arrivato è di dove è andato? È del 27 di mercoledì scorso. Sentiamo cosa ci ha cantato. Intanto che Ping Pong 1 non dimenticarti di me, ritorna da me, e che il tuo cuore batterà così forte e io saprò che tu mi amerai così tanto. Mi chiamo Marco Roma, buongiorno a tutti voi e buongiorno anche a te. anche le palline da ping pong. Yeah. Fantastico. Allora, raccontatemi un po' di che cosa stiamo parlando questa sera. Che cos'è questo ping pong? Allora, facciamo finta che uno si sia appena collegato, è in tangenziale, stava ascoltando Radio Maria, poi è arrivato sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko e sente sto rumore di palline da ping pong e si chiede: ma che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Andrea, raccontacelo tu. Beh, è il progetto nuovo che abbiamo io e Stefano Passini insieme, dopo i Pennarelli, che abbiamo fatto un... Allora, siamo due musicisti, tra virgolette, lui di più, io un po' di meno, riflesso, nel senso, di lato. Certo. Però che abbiamo sempre lavorato insieme su concetti un po' deviati, usando strumenti o tecniche o atteggiamenti che non siano, come dire, stati canonici. Prima avevamo fatto musica per Pennarelli, fatti con i Pantone, con un altro nome, giusto? Sonic Set Pantone. Sonic Set Pantone, ok. Nel 2005. Sì. Dopo ci siamo allontanati per qualche anno, in cui poi dopo io avevo fatto Evolver Folletto, certo, con gli aspirapolveri. E poi ci siamo ritrovati e mi hanno detto: ma perché non facciamo qualcosa sui ping pong? Cioè, io volevo fare qualcosa legato a una musica legata al suono dei rimbalzi. Mm-hmm. Cioè, mi piaceva il ping pong come nome stupido, perché il mio primo principio era il popcorn. Non so se hai presente quel pezzo degli Hot Butter, certo, dei popcorn. Mm-hmm. Esatto, volevo fare un progetto abbastanza deviato e stupido. E abbiamo detto: facciamo tutto campionando palline di ping pong, speaker di coreani che commentano queste partite, questi match. E da lì siamo partiti. Poi, con l'aspetto, come dire, musicale, io ho tenuto l'aspirapolvere perché è il mio strumento principe. Okay. Altro non so fare, a parte un qualche, anche un po' di aerosol, ma ci sta sempre roba da niente, però con il flauto, okay, unito, perché sennò da solo. E invece siamo partiti dalla campione. Questo pezzo che avete sentito è fatto con la batteria usando palle yoga, quelle da yoga, okay, amplificate con dei microfoni a contatto, per cui abbiamo creato delle sequenze di ritmiche che poi uno gestisce come un alfabeto, cioè un tom piuttosto che un piatto, piuttosto che un rullante, e abbiamo costruito una ritmica timbrica fatta però con il rimbalzo in quel caso suonammo con delle bacchette da ristorante cinese, mi pare. Ah, sì. Nella prima. Hai capito. Non no? Mi pare. E da lì poi siamo partiti, abbiamo costruito questo progetto che appunto si chiama Ping Pong, che è un gioco un po' di rimbalzi, di una citazione colta, mettiamola così, Alighiero Boetti, esatto, naturalmente. Perché tu, essendo artista visivo, non puoi non avere una citazione. Esatto. Raccontiamo com'è questo lavoro di che Alighiero è Boetti, che sono due degli anni fine anni 60. Sì, esatto. Sono due scatole display, in uno c'è scritto ping, l'altro c'è scritto pong, e si illuminano ping pong. Sono messi ai lati di una porta. Esatto, è vero. Cioè, infatti, per cui come dire, sinistra o destra, destra e sinistra. A noi ci piaceva l'idea, essendo in due, di una duplicità del gioco. E dunque tutto il disco è stato fatto da voi due e basta? No. Okay. Inizialmente, allora, la storia è un po' più così complessa, ma sintetizzando, dovevamo fare un EP. Sì. Noi abbiamo registrato la prima volta che ci siamo trovati, abbiamo fatto le prove. Ok. Registrando, come registriamo sempre. Poi, ascoltando, abbiamo detto: per noi il disco è già fatto. Ed è stato così, perché ha detto: ma è inutile stare a fare post produzione, mettiamo sopra altre cose. Lo stupore di nostro deve rimanere identico allo stupore di chi l'ascolta, e viceversa. Okay. Perché intanto la musica non è che devi impazzirci, ci puoi anche impazzire, però a noi piaceva che era già buono così. Intanto l'aspirapolvere è diverso ogni volta, non è che rifai le stesse identiche. L'assolo di aspirapolvere non è ripetibile. Non è Hotel California, okay, certo. Non verrà mai uguale come le altre volte. Ok. La batteria anche, mm-hmm, cioè nel senso, beh, è molto improvvisata, comunque. E allora abbiamo venuto fuori questa registrazione che doveva essere un EP. Poi nel tempo, nelle lentezze burocratiche della discografia italiana, sì, abbiamo avuto, ci hanno dato un po' di tempo per fare altri materiali, per fare finta di fare altri materiali, un okay, pochino più seri, sì, e con più complessi, e allora abbiamo chiamato anche degli ospiti. Sì, perché idealmente si divide un po' in un lato A e lato B, che sarebbe un po' lato Ping e lato Pong. Il lato, certo, Ping, di cui abbiamo sentito poi il brano d'apertura del disco, che è Boeing, è quello appunto che nasce da queste improvvisazioni, che poi comunque è stato mixato e, sì, comunque, beh, anche lavorato, editato, da Oderso Rubini, ovviamente personaggio all'unisono, esatto, personaggio che sicuramente conosciamo, conoscete. E poi invece il lato Pong è un po' più elettronico, adesso sentiremo due brani, ed, mm-hmm, è quello che invece è stato più lavorato, diciamo. Però ascoltiamo prima quell'altro, sempre del lato A, del lato del Master Ping, sì, Master Match Ping. No, in realtà sono tutti del lato B, gli altri. Ah, ok, hai ragione anche te. Però fa parte del lato A, vabbè. Sì, diciamo che fa parte dell'improvvisazione, però è stato messo più sul lato B, che, diciamo, se il lato A è idealmente un po' più improvvisato e rock, diciamo, Free jazz, il lato B, senza essere dei grandi jazzisti noi, il lato B in realtà invece è un po' più elettronico. Ah, noi siamo dei jazzisti, siamo dei proto jazzisti, noi siamo proto techno, proto jazz, siamo tutto. E dunque ascoltiamo Match. Sì, vai, sì, con Match. Vado con Match. Partirà? Sì, sì, eccolo qua. Qua si sentono molto bene i rimbalzi delle palline, e questo è suonato anche con dei fischi di microfoni, feedback, e batteria sempre Pong. Sì, elettronico. Effetto stereo nelle cuffie, fantastico. Sì, sì, questo l'ha aggiunto adesso, devo dire, questo rimbalzo stereo. Ma dunque alla presentazione del disco suonate qualcosa anche dal vivo? No, sarà un ascolto collettivo. Un ascolto collettivo. Immersivo. Saranno divani, cuscini, naturalmente, donne nude, quelle cose lì che piace a noi. Quando uno ascolta la musica, non è che può stare a un concerto sempre. Massaggi. Le solite robe alla Renzini. Ci saranno delle file in gabinetto, quelle cose lì che succedono normalmente quando uno si rilassa. Stavolta non sarà a Renz, ma ad Alchemilla, a Palazzo. Ma il Renz lo continuate a visitare? Sì. Lui di più, io perché vado a letto presto. Ah, ok. Ma perché lui è giovane, abbiamo scoperto. Ancora per poco, ma... dunque giovedì prossimo si potrà acquistare il vostro vinile in anteprima, giusto? Esatto. Sì, esatto. Ad Alchemilla, Palazzo Vizzani, alle 18.30. In uno spazio parallelo, poi non è proprio Alchemilla, ma è uno spazio surprise. Surprise. Sì, non è nello stesso piano. È nello stesso piano, ma è un'altra. Oh, wow. È un altro spazio. Altra location. Perché la Camilla, Alchemilla ha diverse possibilità. Sì. Ho capito. E poi sarete con Oderso Rubini, Giovanni Inglese di Raw Culture e Edoardo Bridda, direttore del web magazine musicale Sentire Ascoltare. Esatto. Hai capito, attraverso un'immersione sonica nell'album, nella proiezione del video Zilch, diretto e montato dal regista Giovanni La Parola. Che anticipa... La Parola. Oh, La Parola, è difficile. Però, cioè, se non mi metti l'accento. Ci vorrebbe l'accento, io non lo trovo mai nella tastiera. Ho capito, hai capito. Però si può anche dire La Parola, Basta La Parola. Basta La Parola. Basta La Parola. Anche dei momenti misteriosi, ma decadenti, introspettivi. Ma dunque, come si colloca questa tua esperienza musicale all'interno del... finisce così? Ah sì, perché poi si aggancia l'altro pezzo. Bello. Dicevo, come si colloca, Andrea, questa tua esperienza musicale a tutto quello che fai artisticamente, visivamente, eccetera? Si colloca esattamente come deve collocarsi, cioè non capisco quale sia la differenza se uno fa un lavoro sonoro o ambientale piuttosto che un quadretto a olio, cioè... qual è l'utilità o la differenza? Non so, se facessi solo quadri a olio, cosa che so fare, mi piace fare, benissimo, io li faccio. E poi Spirò mi piace anche lavorare con altre persone. Per dire, se uno facesse teatro piuttosto che cinema, piuttosto che video, piuttosto che musica, dovresti sempre confrontarti con tante altre persone. Invece, se sei da solo nel tuo studio e fai lo scultore, a meno che non lo fai, delichi qualcuno a fare la tua scultura, cioè sei sempre da solo nella tua solitudine, nella tua creatività, nel senso che sei auto... Sono due modi diversi di fare arte, uno è da solo e uno è in compagnia. A me piace molto, appunto, essere più in soggettiva con qualcun altro piuttosto che in solitudine con me stesso. Poi non hai la scimmia dell'oggetto che ti rende immortale, no? Anche se in realtà un vinile ti rende immortale altrettanto. È un preconcetto che non si riesce mai a sfatare, ma qua sembra che se uno fa un disco non va bene, se fai un'installazione va benissimo. Ma non sono comunicanti, sono dei vasi che sono molto sempre... Che non sempre si comunica. Poi contenti chi non si vuole comunicare, se vogliono stare ognuno sul greto del proprio fiume. Esatto, cioè è un po' parte del provincialismo di questa città, no? No, ma non è un provincialismo della città, è un provincialismo... Cioè i vasi che non comunicano, no? Sì, ma anche a New York, immagino, cioè se Bowie dipinge non lo viene preso sul serio. No, come non viene preso sul serio? Certo che viene preso sul serio. Ma non penso, non è che lo vedi alla Biennale, Bowie. No, lo vedi la Biennale, però insomma la mostra a New York, la mostra di quadri di Bob Dylan è stato perché questi sono top name. Magari Alan Vega, che era un artista figurativo, installativo, ha iniziato a 35 anni a cantare. Prima faceva l'artista squattrinato, è rimasto penso squattrinato più di tanto, però quantomeno ha detto l'espressione mia più vicina all'arte è la musica. Infatti mi ricordo una volta andai a vedere Alan Vega con Ontani, che aveva condiviso con Ontani un appartamento a New York ed erano amici alla pari, nel senso che perché certo. Uno deve suonare e non essere tra virgolette No, anzi, cioè, molto spesso che... in realtà i suonatori vengono considerati molto di più degli artisti. Esatto, infatti anche vabbè, comunque non parliamo, no, non parliamo di ste robe, dai, parliamo di cosa parliamo allora? E stavamo dicendo che la presentiamo da Alchemilla con Bridda, Edoardo Bridda di Sentire mm-hmm. Ascoltare. E poi di Aero Culture, dell'incontro, e l'incontro di con Giovanni Inglese. Giovanni Inglese, che è questo ragazzo di Roma che ha questa etichetta che ha ormai 7 anni, si chiama Culture, è cultura la, che ha stampato il vostro vinile, sì, che ha prodotto il disco ed è stato carino l'insieme, perché lui è venuto a Bologna per vedere una mostra sul rock bolognese degli anni 80 che c'era in comune. Però ha sbagliato indirizzo e è andato al Museo della Musica e ha beccato la tua mostra. Sì, c'era la mia mostra, forse l'ha vista anche, però in quella sera lui è arrivato, forse che la mostra era chiusa, ha visto semplicemente il concerto dei Folletto con la Suz come ospite. È rimasto molto colpito, mi ha chiesto se avevo dei materiale per dei Folletto e io ho detto guarda non ce l'ho perché i Folletto sono ancora più lenti nel produrre, e gli ho detto no, c'ho qualcosa dei Ping Pong. Lui fa What? Ping pong? What? Fa mandali, e glielo mandati. Lui essendo inglese ha detto what? Esatto. Che cretino. E ha detto mandami il materiale, mi ha mandato un paio di demo dei Ping e lì ha detto, è venuto a Bologna e ha detto facciamone qualcosa, facciamone un disco. Allora poi dopo appunto le cose si sono evolve e poi lui comunque è un'etichetta che noi non conoscevamo, ammettiamo, però che era amico di Balli, che si è fatto un po' anche, conosceva Balli di Belligeranza, esatto, che è un po' più underground di noi, pur avendo un megastore e ci ha dato questo insomma, siamo diventati amici, da lì è nata poi la collaborazione per fare questo disco, che poi dopo appunto, avendo visto tutta la storia che avevamo fatto con Lavagna, con Giorgio Lavagna, che è ospite in un pezzo insieme a Serotti di Confusion, memorie storiche, dei nomi importanti, ma sì, a parte essere amici di infanzia praticamente. Ed è stato bello farlo, una piccola collaborazione che, insomma, è una cosa che doveva essere fatta prima o poi, e abbiamo fatto questo pezzo che si chiama The Future insieme a Giorgio e a Enrico e alle musiche di Enrico Serotti hai capito, che ascolteremo alla fine della trasmissione. No, subito, perché Zilch poi un'altra cosa ancora. Allora ascoltiamo 2 minuti di Future, perché poi ci sono le pubblicità delle 20:30. Sì. Andiamo. Oddio. Ah, cavoli. Qua siamo. Future. toxospaziale. Coxo spaziale. Ebbene sì, questo è Coxo spaziale. Io sono sempre Stefano W. Pasquini. Siamo qua con Stefano Passini invece e con Andrea Renzini, ovvero i ping pong. Ma vi, no, aspetta, vi chiamate Pong Ping. Ma non c'è già un gruppo che si chiama Ping Pong al mondo? Sì, sicuramente. E l'abbiamo fatto proprio per non essere notati. Perché sabato prossimo è la giornata del contemporaneo. Non so se lo sapevate. Me l'ero segnato. Tu te l'hai risegnato, ok. E siccome è la giornata del contemporaneo, siamo andati a chiedere al maggior responsabile della giornata del contemporaneo che cos'è questa giornata del contemporaneo. Abbiamo sentito qualche giorno fa Lorenzo Balbi che ce lo racconta, sentiamolo. Arte contemporanea. Sabato 7 è la giornata del contemporaneo e abbiamo qui il presidente di AMACI, giusto? Che allora dici che cos'è AMACI e dici che cos'è la giornata del contemporaneo, perché i nostri ascoltatori sono un po' distratti. Buongiorno, sarà giorno? No, è sera. Buonasera. Allora, buonasera a tutti, sono Lorenzo Valli, intanto, presidente di AMACI. AMACI è l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani, musei pubblici, è un'associazione che ormai ha 20 anni, che riunisce attualmente 23-24 musei pubblici di arte moderna e contemporanea. È un'associazione che promuove la cultura delle arti visive contemporanee in Italia, che crea questo network di istituzioni attive sul territorio italiano, promuovendo bandi, iniziative. La più visibile al pubblico di tutte è la giornata del contemporaneo. Quest'anno sarà la 19ª edizione della giornata del contemporaneo. L'anno scorso siamo diventati maggiorenni, quest'anno celebriamo l'età raggiunta di 19 anni, sabato 7 ottobre, con una giornata del contemporaneo ormai imposta nel calendario culturale italiano come quel momento in cui tutte le realtà pubbliche e private, singole, collettive, aperte al pubblico, nascoste al pubblico, aprono le loro porte gratuitamente a tutti per una giornata, per far vedere quali sono le loro ricerche, quali sono le loro attività. E una giornata appunto in cui tutti i musei AMACI aprono le loro porte gratuitamente, inaugurano nuovi contenuti e hanno un occhio particolare quest'anno nuovamente al tema della sostenibilità ambientale. Promuoveremo come AMACI un grande convegno proprio sui temi della sostenibilità, dell'ecologia e dell'abbattimento delle necessarie politiche di abbattimento delle emissioni a novembre. In occasione di Bergamo Brescia, capitale della cultura, sarà una grande giornata dedicata allo studio sulla sostenibilità, l'impatto anche delle imprese culturali sul discorso della sostenibilità ambientale. Iniziamo a parlare di questi temi il 7 di ottobre con la giornata del contemporaneo. Come di consuetudine abbiamo chiesto a un artista di ideare una immagine guida, un'immagine che possa essere un riferimento anche concettuale per questa giornata. Quest'anno è l'artista italo-senegalese Binta Diop, che ci ha regalato una bellissima immagine in cui un corpo diventa un albero, una pianta, una radice conficcata nel terreno, quindi anche idealmente diventiamo artefici, no? Della nostra natura, del nostro ambiente e delle azioni che questo determina. E la vedrete presto, la presenteremo appunto in una conferenza stampa e sarà divulgata su tutti i nostri canali, ma quello che mi piace di più pensare è che il 7 di ottobre sia una grande festa dell'arte contemporanea. Noi censiamo ogni anno centinaia di iniziative, sia in Italia sia grazie alla collaborazione con il MAECI, il Ministero degli Affari Esteri. censiamo centinaia di eventi, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero, tutti gli istituti che si occupano dell'arte contemporanea italiana anche nel resto del mondo, però mi piace pensare che la giornata del contemporaneo sia anche la giornata di quegli eventi che non censiamo, degli artisti che aprono le porte dei loro studi, delle accademie, degli spazi no profit che magari non ci comunicano la loro iniziativa, ma che in quel giorno si sentono richiamati, insomma, da questo fermento e si mettono in mossa, aprono le loro porte al pubblico. Proprio quello che vogliamo comunicare è che il sistema dell'arte contemporanea in Italia è vivo, crea lavoro, è fatto di professionisti che hanno bisogno di essere sostenuti e di far vedere quello che fanno, di essere riconosciuti anche dal resto della popolazione. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. E dunque la giornata del contemporaneo, sabato. Ma prima di sabato succedono un sacco di cose e dunque, ahimè, prima di ritornare ai nostri ping pong ci tocca di fare questa cosa. L'angolo della menzione. Ovvero raccontare quello che succede questa settimana nel mondo dell'arte contemporanea. Giovedì 5 ottobre alle 18, infatti è un po' sfortunata la faccenda, perché negli ultimi 10 anni CIP ha abituato il pubblico ad un'idea di arte pubblica effimera, instabile come la carta dei poster che affigge in strada, partigiana come i contenuti politici e transfemministi che ha disseminato sul paesaggio urbano della città. Oggi il progetto di arte pubblica su poster con base a Bologna arriva al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, per celebrare un decennale all'insegna del sabotaggio come pratica artistica trasformativa. Il Museo d'Arte Moderna di Bologna ospiterà installazioni di lavori già realizzati da CIP, parte dell'archivio fotografico che documenta i progetti in strada, alcune traduzioni di poster in formati atipici, riedizioni ripensati in prospettiva sai specifiche. Il tutto sarà disseminato tra spazi espositivi e non espositivi, dai bagni per il pubblico alla collezione del museo. Questo è giovedì alle 18 al Mambo in via Don Minzoni 14. Sempre giovedì, naturalmente, secondo me tranquillamente si riescono a fare entrambe le cose, magari prima si va negli spazi di Alchemilla, dove viene presentato in anteprima appunto l'album di debutto di Ping Pong, prodotto dall'etichetta Raw Culture. Oh, mi dice download fallito, bastardo. A questo proposito stiamo aspettando che arrivi un nuovo pezzo via WhatsApp, e dicevamo, e insieme ad Oderso Rubini viene presentato. Sarà l'occasione di assistere ad ascoltare ad un'anatomia sonora, il making of di un, che poi in realtà si scriverebbe senza una F, di un lavoro discografico anomalo, sì, indirico. Sì, è vero. Noi siamo offissimi. Veramente offissimi. Non siamo trate visiva e musica sperimentale. Lo presenteranno gli autori, Andrea Renfini e Stefano Passini, che sono qui con noi, insieme a Oderso Rubini, Giovanni Inglese di Raw Culture e Edoardo Bridda, direttore del web magazine. Perché musicale. Dici Bridda? Per dare importanza. Sentire e ascoltare attraverso un'immersione sonica dell'album e alla proiezione del video Zilch, che forse riusciremo ad ascoltare, sì. Diretto e montato dal regista Giovanni La Parola, che anticipa l'uscita del disco. Questo è da Alchemilla in via Santo Stefano 43. Ah, ecco perché si chiama 43 il sito, perché il sito è alchemilla43.it. Invece venerdì 6 ottobre dalle 19 alle 24 abbiamo il Capannone, che finita l'estate si lavora per installare la mostra museale del grande Andrea Nacciarriti. L'esposizione avrà ben 2 giorni di inaugurazione, la sera di venerdì 6 ottobre dalle 19 alle 24 e il pomeriggio di sabato 7 ottobre dalle 16 alle 22. Come ormai d'abitudine, si potranno trascorrere momenti di convivialità sorseggiando una buona birra. Questo è al Capannone di San Lazzaro in via Albertini 5, appunto a San Lazzaro di Savena. Poi sabato, che è appunto la giornata del contemporaneo, si parte alle ore 11 con una collettiva chiamata Anemoni, con Renata Boero, Valentina Daccardi e Alessandro Roma, a cura di Irene Biolchini. Il progetto coinvolge 3 artisti di generazioni diverse che, con differenti approcci creativi, riflettono sul rapporto tra natura, decorazione e frammento. Il titolo della mostra, Anemoni, richiama il tema della vegetazione che caratterizza i mosaici ravennati, in particolare i fiori, simbolo di caducità e di fragilità, ma la mostra fa anche riferimento a un percorso di rinascita, di cura dei traumi, di rapporto con le forze naturali come portatrici di distribuzione e creazione. Questa è alla Fondazione Sabe per l'Arte ed è in via Giovanni Pascoli 31 a Ravenna stavolta. Sempre sabato dalle 15 alle 21.30 abbiamo sempre per la 19ª giornata del contemporaneo abbiamo Vincenzo D'Argenio per Spazio Altrove con una mostra che si intitola E ora vi presentiamo un piccolo dramma, tragedia in pochi atti e alcuni quadri, appunto di Vincenzo D'Argenio. Questo è allo Spazio Altrove in Viale Carlo Pepoli 62A a Bologna stavolta. Dopodiché abbiamo dalle 18 alle 21 la 8 Gallery, che è lieta di presentare presso i propri spazi espositivi la mostra del titolo Stazionari Altrove, un progetto a cura di Matteo Montani con Loris Cecchini, Vincenzo Schillaci, Marco Tirelli e Matteo Montani stesso, che si confrontano sul rapporto tra arte e natura secondo una linea di base tracciata da Montani che parte dal concetto di forza della natura. Questa è alla 8 Gallery in via D'Avveglio 55, appunto sabato dalle 18 alle 21. Stesso orario, stessa zona, inaugurazione allo studio G7 con la mostra personale di Jacopo Mazzonelli che si intitola A Room, con un testo critico della fantastica Francesca Guerisoli. Dopo Iso Rhythm, la doppia mostra del 2019 insieme a Giulio Paolini a cura di Bettina Dalla Casa, Mazzonelli entra nello spazio della galleria costruendo una cosiddetta ideale stanza della musica. Il titolo del progetto cita intenzionalmente una composizione di John Cage e riprende in questo caso il tema degli oggetti domestici del musicista. Questa è la Galleria Studio G7 in via Valdaposa 4A, sempre sabato. Poi dalle 18 invece adiacenza inaugura Snitch, la mostra personale del collettivo Plurale a cura di Alessio Vigni. Prendendo in prestito espressioni estetiche e comportamento del fenomeno culturale trap italiano, la mostra diventa lo spazio per costruire un'analisi profonda sulle problematiche sociali che riguardano le nuove generazioni, con particolare attenzione alla generazione Z, che è quella a cui appartiene Stefano Passini, mentre invece noi siamo Ancient, quella a cui appunto gli artisti appartengono. In occasione dell'opening dalle 18.30, aspettate che vi abbasso così potete anche bisbigliare, in occasione dell'opening alle 18.30 si svolgerà la performance di Plurale dal titolo Live. Sarà inoltre possibile sfogliare ed acquistare il catalogo della mostra edito da Psicografici Editore di Roma. Questa è ad adiacenze in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. Spostiamoci invece più lontano, ritorniamo in Romagna, perché il Museo Baracca di Lugo per la giornata del contemporaneo presenta Matrice 4, oggetti, storie, disegni. Il Museo Baracca come non l'avete mai visto, 12 storie a partire da 12 oggetti conservati al museo, scelti e raccontati da 12 persone diverse, dentro alle 12 stanze in cui si articola il percorso espositivo della Casa Museo di Francesco Baracca, tra cimeli, fotografie, dipinti e disegni, lettere e uniformi, aerei e cavalli. Inoltre abbiamo oggetti e disegni, 25 artisti, a cui se ne aggiungeranno altri, danno vita a un'azione collettiva di disegno dal vero dentro alle stanze del museo, a creare una mappa o una costellazione che congiunge cose e pezzi sparsi, punti di vista e modi di fare. Un progetto di Massimiliano Fabbri. Questo è il museo di Francesco Baracca in via Francesco Baracca 65 a Lugo di Romagna. E basta così. Oddio, è già partito qualcos'altro. Ah, siete voi? Ah. No, pensavo che se non ti arriva, no. Massimo te la mando io. Me lo mandi dal microfono, no? Perché in realtà continua a fallirmi. Perché siamo troppo. No, ma va bene, sì, va bene così. Sì, va bene. Se no, poi dopo spoiler tutti il disco. Anche perché poi dopo se lo facciamo sentire tutto, non. Sì, al pre-listening, che non sono ancora capito cosa sia. Non ce lo compro nessuno. Io ho una domanda. Quante è a Perché noi raddoppiamo tutto, quindi è making off. No, anche perché poi per chi come non me è su Spotify, prima o poi Ping Pong apparirà anche Spotify. Tu sei su Spotify? No, io non ho Spotify, sono l'unica persona che conosco che non ha scaricato Spotify perché non mi piace eticamente. Allora siamo in due, però tu ci sei dentro per cui... No, ancora no, però saremo presto. Ma non siamo ancora iscritti alla SIA, ecco. Ahia, questo non lo dovevi dire, esatto, adesso lo cancelliamo nella lista. No, siamo all'Inps alla SIAE con due perché comunque adesso ci sono anche ci sono anche delle alternative alla SIAE, lo sai, ci sono altre due aziende che fanno lo stesso mestiere e sembra che insomma in una c'è Fede, in una c'è Mogol e l'altra c'è Battisti, e così, e dunque non possiamo, è andato, però metti l'ultima, ma no vabbè, ma troppo, manca ancora tempo mentre parliamo, possiamo infatti aspetta che però poi deve anche partire, è partito, aspetta un po', sì che ci mette un po', però questo ci dà l'occasione poi di sentire le famose voci coreane. Questo si chiama Fanny, è un pezzo molto divertente, ma perché avevamo preso effettivamente delle voci di commentatori coreani che si fanno delle grandi risate e effettivamente siamo divertiti molto ad ascoltarli e pimponcheggiano con le voci, sì, cioè. Ah cavolo, è un po' erotico anche. Abbastanza erotico, devo dire. Questo come si chiama? Si chiama Fanny perché appunto nasce da questo Fanny Match, che era un po' il titolo del video da cui l'abbiamo preso, facendo sempre giochi di parole senza conoscere l'inglese, perché Fanny si scrive con la U e Fanny invece si scrive con la A. Ah è vero, mannaggia, ma allora ci riproveri in tutto oggi, mannaggia. Vabbè, è un disco, è un coxo, ma sempre perché un siamo un gran coxo, sempre perché siamo prodotti da Giovanni Inglese, ricordo. No, infatti, esatto, no, ma è che io sono bravo a rompere il coxo. Sì, beh, appunto potevi chiamarti anche cazzo spaziale, che era uguale, era uguale. Salutiamo Giancarlo Norese che ci sta ascoltando. Non ci credo. Certo, lui ci ascolta sempre. Ciao Nautilus. Ciao caro. Se abbiamo naturalmente degli ascoltatori coreani, vi invito a spedirci la traduzione di quello che succede. Io lo auspico perché non sappiamo assolutamente cosa dicono. E anche specialmente nel pezzo che sentiremo forse adesso Zilch, che non vuol dire nulla. Che vuol dire nulla, niente di niente. Ed è in inglese, non è una lingua assurda, esatto. E lì abbiamo usato invece la voce campionata di un discorso di Kim Jong-sung, quello attuale. Dell'attuale, sì, perché invece nella copertina del disco, perché siamo. C'è il padre. Ah, ok. Sempre a loro insaputa, poi speriamo che rimanga a loro insaputa. Che il padre, però, io l'avevo già visto da qua in qualche. Io l'ho incontrato al Mambo un po' di anni fa. No, invece la tua rappresentazione del padre l'avevo già vista in una qualche tua espressione. Sì, perché le cose si ripetono, intanto è un circolo vizioso, come diciamo. È un circolo viziato. Viziato, sì. Circolo coreano. Un circolo coreano artico. E dunque vado con Zilch mentre. Sì, no, perché fra l'altro posso anche sfumarli in questo caso, sai? Però presentando un attimo, che è stato appunto un lavoro che abbiamo fatto il video insieme a Giovanni Laparola, fatto nello studio. Le Plastic Hair che ha fatto le ballerine. Grande. Che ha fatto artistico. Okay. E invitiamo appunto gli ascoltatori a guardare il video che trovate mettendo Ping Pong Zilch, in questo caso Z-I-L-C-H, lo trovate. Su forse YouTube, abbiamo anche scritto bene. Sì, Zilch. Niente di male, nessun errore, niente. Hai visto che mixata che ho fatto? magnifico. In realtà mi sarebbe sempre piaciuto fare il DJ. Da qui puoi partire. Potrei partire da. Ma non lo so, non mi sento molto apprezzato. Vuoi venire con noi a Roma al Fanful? Dai, quando? 14 ottobre. Si potrebbe anche fare. Ecco, chissà, il nordcoreano può invece capire cosa dice il nostro beneamato dittatore. Avete un gran batterista, cioè, beh, il ritmo qui non manca. Ha dovuto provarla mille milioni di volte prima di prendere il ritmo. Grande fatica, però fatica. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto gli avambracci. Sì. Abbiamo soltanto 2 minuti rimasti, perché qui abbiamo notato che i nostri fantastici amici di Panta 80 sono. Chi sono i Panta 80? Sono arrivati. Sono la prossima trasmissione su Radio Città Fujiko 103.1. Ma noi possiamo rimanere anche come ospiti. No, in effetti siete abbastanza anni 80 da poter rimanere anche. Panta 80. Panta 80. La Panta. La Panta. Abbiamo anche la Panta degli anni 80. Ma noi abbiamo anche il completo. Il leopardato. Il leopardato 80. Il pantacalcio. Il pantacalcio. Per cui cosa dobbiamo aggiungere a queste... Aggiungiamo anche che in realtà, adesso lo diciamo in anteprima, dovrà essere confermato, ma il 2 novembre probabilmente suoneremo al Freak Out a Bologna. Dobbiamo scegliere se suonare il giorno dei morti. Esatto. O il giorno dei Quindi sani. Non andate a fare questo ponte, tanto no, pioverà, tanto non ci si diverte. Ma no, io penso che il Dead Day è un ottimo giorno per festeggiare i morti degli ambienti con un concerto di ping pong. Assolutamente. Tra vita e morte, ping e pong. Ok. E se poi non succede, cosa? No, succede quasi sicuramente. Quasi sicuramente. E poi allora il Fanful è il 14 ottobre. Okay, a Roma. A Roma. Il 14 dicembre suoniamo alla Atomic Bar a Milano. Bar. Siamo in tournée. E in mezzo ci infiliamo il Freak Out il 2 novembre in Via Zago, come immagino tutti sapranno. Io non ci sarò perché sono a New York. No, sono ad Atene, mi sa. Ma allora veniamo anche noi. Troviamo anche una data. No, sotto una data il cartellone. Una data ad Atene a dicembre? No, ma il 2 novembre. Ma vai ad Atene il 2 novembre. Certo. Ma che c'hai? Amici morti ad Atene? Ateniesi. Esatto. O amici un po' morti ad Atene. Vabbè, lì sono morti a Parigi. E siccome il pezzo finale dura 4 minuti e 59, direi che possiamo salutarci così. Ringraziamo Andrea Renzini, miglior artista di Bologna. Dopo Campestri. No. Quello è la bellezza. Tu sei il più alto. A metà tra Campestri e Bufalini. Tu sei il più grande artista di Bologna. Ma femminile? No. Maschile. Il più grande artista di Bologna, in effetti solo maschi, perché donne più brave di te ce ne sono uno sbanderno. Ah, vero, per fortuna sono nato maschio. Esatto. E in più, sì, non sei più l'artista più bello di Bologna, ma da poco. Però adesso c'è Mr. Ping che. E invece è il più bel batterista di Bologna. È quello. Stefano Campestri Bastini. Non suona la batteria. Oltre ad avere però non la suona attualmente. Che oltre ad avere un nome che suona bene, Stefano Passini, è anche single, per cui fatevi sotto. Vai l'annuncio, dico venite. Scusate, questo è un colpo basso. Ci sta. Molto bene, e dunque come al solito ci salutiamo con le parole del nostro fantastico direttore di radio che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E la sigla è il pezzo anni 80 di prima, no? Ah beh, ma che onore! Cioè, questa come sigla finale ci sta da Dio. Io naturalmente ero Stefano W. Pasquini, salutiamo anche la nostra amica Mia da Schio su Piei che oggi non c'era, questa era Coxo Spaziale e ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko. Vi aspettiamo giovedì. Giovedì 5. Giovedì da Alchemilla. Da Alchemilla, via Santo Stefano 43. Dalle ore 18:30. Oh yeah. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao. What you looking about? What you looking behind? What you looking behind? What you looking about? What you talking about? What you looking behind? What you looking behind? What you talking about? What you talking about? What you looking behind? What you looking behind? What you talking about? What you talking about? What you looking behind? What you looking behind? Life is new, straight for heaven. Borders are always mine forever. After sex, running quicker from the past, bringing more than next humanity. Pre-transmission coming from the sky. Serious problem with no reason why. Hyper speed, after trash, hurry up. Do your best, be more special than they used to be. My love is mine from the future. Bleach, just love and fun. Be the savior of the